place of our commendations. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità. Sì, i sogni sono desideri, ma se c'è un giorno giusto o sbagliato, secondo i punti di vista, per avverarli è oggi per gli americani. Tutti i telegiornali sono sintonizzati sui cancelli d'ingresso dei grandi centri commerciali, perché oggi è il Black Friday, il giorno in cui tutta l'America, compattamente, essendo giorno festivo, nel ponte del ringraziamento, va a fare lo shopping di Natale, e ci sono visioni apocalittiche, o se volete straordinarie, se siete degli ottimisti, perché comunque per un'altra volta ancora gli americani che tanto amano il web, la rete, non hanno accolto l'invito di quelli ben informati, di quelli organizzati, ovvero di fare lo shopping online. Ma che divertimento c'è? Ordini, poi aspetti 2, 3, 4, 5, 7 giorni, invece vai lì, ti butti nel mucchio e chi si è visto si è visto, insomma è lì che quando il gioco si fa duro, eccetera eccetera. In sostanza, pensate, un mall a Des Moines, nell'Iowa, in mezzo proprio all'America profonda, 4 del mattino, 4 o forse anche più gradi, sotto zero, 55.000 persone in fila. Non so se avete capito la portata del fenomeno, in fila con i loro cappellini, con il pompon, in attesa dell'apertura dei negozi e della grande abbuffata, ammazzata di shopping, perché ci sono prezzi formidabili. Naturalmente i grandi rivenditori non sono mica stupidi, su questa giornata puntano praticamente l'annata e quindi sconti formidabili. Si legge che un GPS di marca può essere portato a casa con $99, e parliamo di dollari, che un notebook con 4 giga di memoria, quindi ultima generazione, sta sotto i $400, e soprattutto che è già sparito praticamente lì nell'Iowa, per esempio, avranno appena aperto da una mezz'ora, ma è già sparito dagli scaffali dei grandi negozi di giocattoli questo Juju, che io purtroppo ignoravo chi fosse. L'ho imparato oggi, il cucciolo elettronico Juju pare essere la follia degli americani per i regali di questo Natale, spero per i loro figli. Insomma, un cucciolo elettronico, del resto non lo si deve portare fuori la sera, e credo che sia, quello che dicono i ben informati, il regalo più gettonato per Natale e di conseguenza più acquistato in questo Black Friday. Impazza la mania natalizia in una annata durissima per gli americani, che ieri sono stati salutati dal loro presidente con parole attente, chiamiamole attente, via. And it's my fervent hope and my heartfelt expectation that next Thanksgiving we will be able to celebrate the fact that many of those who've lost their jobs are back at work, and that as a nation we will have come through these difficult storms stronger, wiser and grateful to have reached a brighter day. Thank you. Questo è il saluto e anche la benedizione pronunciata da Barack Obama ieri, nel giorno del ringraziamento. Il capo dello Stato americano ha ammesso le difficoltà economiche, naturalmente, che la nazione sta attraversando, ha parlato dei tagli alle tasse, di altre misure adottate dalla sua amministrazione per dare una mano alle persone in difficoltà. Ha detto che però ci sono ancora molte altre cose per cui ringraziare. Nel giorno di ringraziamento bisogna pensare non solo alla questione, dannata questione economica, ma anche per esempio all'amore dei propri cari, all'orgoglio per le proprie comunità, per il proprio paese. Insomma, ha richiamato fuori un po' quello spirito di congregazione che naturalmente nei momenti difficili tende un po' a impallidire, ma che invece è sempre uno dei cardini essenziali dell'America. Poi il presidente dallo Studio Ovale ha telefonato a 10 soldati e soldatesse americane al fronte, divisi equamente fra i 5 corpi: esercito, marina, aeronautica, marines e guardia costiera, soldati di stanza in Iraq e in Afghanistan. ha detto loro, oltre a formulare gli auguri, di sentirsi sinceramente riconoscente per i servigi offerti alla nazione. Poi ha detto che il suo vero auspicio per l'America del 2010 riguarda il lavoro. Lui spera che fra un anno esatto, in un nuovo discorso di ringraziamento si possa salutare il ritorno degli americani in massa, ormai della impressionante percentuale di disoccupati, a un lavoro che dia sicurezza alle famiglie. Mr. and Mrs. Salahi. They sure did make a grand entrance. It's not clear if they ever got. E questa era sempre più misteriosa. Ieri vi abbiamo parlato storia dei coniugi Salahi. Si chiamano Tarek e Michelle, anche se la pronuncia del nome di lei non è chiara, perché ha uno spelling diverso dal tradizionale. Ma insomma, questa coppia della Virginia, come abbiamo raccontato, è riuscita a infiltrarsi superando i severi controlli di sicurezza alla festa, alla cena di Stato, anche poi in fondo cena del pre-ringraziamento, diciamo così, alla Casa Bianca. Si festeggiava la visita del premier indiano, c'erano 400 ospiti sceltissimi, VIP della politica e del mondo pubblico e dello spettacolo americano, e c'erano anche i coniugi Salahi, che non avevano ricevuto nessun ingresso, si erano vestiti appropriatamente, lei in rosso e oro, lui in smoking, aveva fatto grandi sorrisi ai paparazzi, ai reporter, erano stati addirittura annunciati a un certo punto. Ma insomma, chi sono questi due? Si comincia a chiedere CNN, anche perché il loro futuro si prospetta piuttosto buio. Naturalmente, dopo aver beffato i servizi di controllo e di sicurezza della Casa Bianca, non ci si deve sorprendere che questi stessi servizi vogliano prendersi le loro rivincite, se non le loro vendette, e quindi sarebbero addirittura 16 le imputazioni nei confronti dei coniugi Salahi. Ma però si vuole soprattutto capire se si tratta di due burloni, insomma, così col pallino della mondanità di farsi vedere, o invece due inveterati delinquenti, come sembra saltar fuori dalle ricerche fatte dai solerti giornalisti americani, che tirano fuori il ritratto di una coppia che già in campo di truffe, se non addirittura di persecuzioni nei confronti di malcapitati cittadini della zona di Washington, avevano già i loro guai all'attivo. Avevano ad esempio a loro tempo un'enoteca, gestivano una enoteca che organizzava anche matrimoni, ma lo faceva in modo truffaldino, e poi assumendo atteggiamenti particolarmente arroganti, prepotenti nei confronti dei clienti. Loro dicono che tutto questo era semplicemente il passo di avvicinamento a una celebrità televisiva che sarebbe transitata attraverso la loro partecipazione a un reality show. Secondo me, quello a cui parteciperanno molto presto è soprattutto un grande processo. E detto questo, concludo dicendo che New York ieri è stata in festa con la grande parata di Macy's, con meravigliosi carri di ogni genere, fra cui lo Spider-Man di cui abbiamo parlato, ma anche tanti altri personaggi rappresentati in termini colossali, giganteschi, veramente uno spettacolo per i turisti indimenticabile. Però al tempo stesso viene fuori che la città di New York e l'intero stato di New York sarebbero alla bancarotta. Nuovo appello del governatore Patterson: o mi trovate un po' di soldi o lo Stato comincia a non pagare più, tanto per fare un esempio, ospedali e scuole. Si dice che è una pratica ricorrente, ma che la situazione mai come adesso è pessima per le finanze di questo Stato, paragonate ormai a quelle tragiche dello Stato della California. Auguri buon Natale anche a loro, e auguri di buon Natale, questi più a titolo personale, se permettete, a Shaquille O'Neal, che oltre a essere una star del basket che da tanti anni seguiamo e ammiriamo, ieri ha compiuto un gesto che è stato poi scoperto dai cronisti, che ci fa piacere perché è tutto a suo onore. Il campione, per carità, ipermiliardario, ha pagato senza esporsi, senza farsi vedere, le spese del funerale di una bambina che si chiama Shania Davis, scusatemi, una bambina che è stata rapita, violentata e uccisa, una bambina di 5 anni, una storia nerissima, orribile, della Carolina, che ha molto sconvolto gli americani, anche perché la famiglia era nulla tenente. Quindi questi funerali non si sapeva come pagarli. Beh, una volta tanto il gigante buono, invece di metterla nel canestro, l'ha messa al centro del nostro cuore, e di questo lo ringraziamo. Buongiorno America. Stiamo studiando per capire bene cos'è questo juju. Qualcosa abbiamo capito. Sappiamo innanzitutto che ci sono, come scrivono i quotidiani di questa mattina americani, i juju fanatics. Quindi, ragazzi, la tendenza è, come dire, è già bella forte. Comunque sì, è un cucciolone elettronico del quale veramente non vorremmo neanche vedere la fotografia. Però a questo punto invece la curiosità ci prende. Se gli americani a milioni si mettono in fila per assicurarsi uno juju per Natale. Risuona questa musica sullo sfondo, ovvero quella della coppia Jay-Z Alicia Keys, perché sapete, il venerdì vi rimandiamo qualche cronaca, insomma, dallo show business americano, che resta poi sempre l'asset, insomma, portante dell'America, almeno per quello che riguarda la sua visibilità nel mondo, e perché questa canzone, che si chiama Empire State of Mind, una canzone dedicata a New York da uno dei suoi illustri cittadini, appunto Jay-Z, continua a essere la più venduta in America, e ormai direi che il titolo di canzone del Natale 2009 se l'è assicurato. Secondo me vincerà anche tutti i referendum della canzone del 2009, perché funziona da morire, mentre c'è già ormai a insidiarne le vendite nelle classifiche musicali Lady Gaga con Bad Romance, poi una serie di rapper di cui vi risparmio lo spelling, e riappare in fondo alla classifica una nostra vecchia favorita, una vecchia fiamma, Britney. How many people do you think are still alive? In the world? Not very many. Cinema nel weekend americano, che poi ormai è così ravvicinato, no? Quasi sovrapposto con il cinema del weekend italiano. Le nuove uscite, la uscita più attesa in questo fine settimana è quello di The Road, un film tra l'altro che ha girato anche nei grandi festival italiani di fine estate, quindi se ne è già parlato. Per gli americani poi un film interessante, perché preceduto da un volume interessante come l'omonimo libro di Cormac McCarthy, che fece comunque molto effetto, molto discutere, anche molto soffrire i suoi tanti lettori americani, perché è un film sul come finirà, come sopravviveremo, che cosa resterà non solo di questi anni 80 ma anche di tutto il resto, attraverso la storia di un padre e di un figlio che camminano su questa strada in mezzo a questa nebbia marcia malata, andando forse verso la California, forse verso chissà che cosa, sperando, no, in questa grande solitudine, sperando di non incontrare nessuno, perché se incontri qualcuno in un mondo che nel romanzo di Cormac McCarthy ormai è diviso tra i buoni e i cattivi, e i cattivi sono molto più dei buoni, se incontri qualcuno sono guai, un'atmosfera apocalittica che si pensava difficilmente si poteva trasferire sullo schermo. Invece questo film, secondo le critiche americane, ci riesce piuttosto bene, con questa regia molto solenne e con questa soprattutto colorimetria particolare, no? Gestita da un autore che si chiama John Hillcoat, una sceneggiatura estremamente fedele al libro, e la interpretazione di Viggo Mortensen nella parte del padre e di Cody Smith McPhee nella parte del figlio, il ragazzino in particolare, molto lodato dai giornali americani. This is the story of one week in my life. It was the week I fell in love. The week I would make my Broadway debut. What the hell is it now? And the week I would meet Orson Welles. Oh, questo è un libro invece destinato a un consumo sicuramente più ridotto e sicuramente più metropolitano, è un film che andrà bene nelle sale di New York, Chicago e Los Angeles, ma particolare anche per il cast che ha, certamente per la firma che ha, si chiama Me and Orson Welles, è un film firmato da Richard Linklater, prolifico autore che a suo tempo amammo molto perché fu il regista che firmò i migliori film della cosiddetta generazione X, no? Il suo film d'esordio si chiamava Slacker ed era un grande ritratto della gioventù difficile dei primi anni 90. Adesso è diventato grande anche lui, fa progetti più ambiziosi, questo è ambientato negli anni 30, nel 1937, lungo una settimana del 1937 a New York, dove un ragazzino che è in procinto di fidanzarsi, e il fidanzamento sarà insomma l'obiettivo di questa sua settimana, intanto bazzica attorno a un teatro che si chiama Mercury, dove un pazzo geniale, megalomane, antipatico e simpatico al tempo stesso, che si chiama Orson Welles, che ancora non è nessuno, sta mettendo in scena una commedia di Shakespeare. Lui finirà nel cast di questa commedia, cercherà l'amore. La cosa divertente è che lui altri non è che Zac Efron, ovvero il ragazzetto per cui mezzo mondo è impazzito quando faceva ancora il liceale a modo loro. I suppose you want a kiss. Kissing would be nice, yes? Oh, e questo per concludere sono rumori tipicamente insomma da cartone animato, avete già sentito la ranocchia, quindi siamo già un passo avanti. Disney manda nei cinema americani un film molto vecchio stile, non a caso il trailer richiama proprio, no, le grandi principesse del passato, quello per cui le nostre bambine ancora oggi perdono la testa, e qui c'è una principessa che ha a che fare con un rospo e tutto quello che ne consegue, però attualizzato, ma non attualizzato nel disegno, i colori sì, i colori sono colori acidi, colori moderni, colori da negozio di moda per teenagers, ma invece il tratto, il disegno è quello proprio del Disney classico, con i personaggi così fluidi, no? Affascinanti per la loro morbidezza. La cosa divertente è che tutto è ambientato a New Orleans, tra la palude e la città. La storia è una storia di lavoro e di come, più che diventare principessa, diventare veri, insomma esistere nel mondo del lavoro, e soprattutto che la principessa, signore e signori, come quella che abita la Casa Bianca, è nera. Anche Walt Disney aggiorna quindi i propri ritmi, i propri temi e i propri colori all'America del 2009, che vi raccontiamo qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Roberto Scaltritti a Milano. La mail Buongiorno America è tra24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3. Questa notte dopo mezzanotte andiamo in replica, poi andiamo in weekend, ci sentiamo dopo l'una e mezza lunedì e anche senza Black Friday. Buon weekend a tutti.